Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ritroviamo l'appuntamento consueto con l'ADICO, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ritroviamo il presidente Carlo Garofolini. Benvenuto Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, parliamo di un argomento che è di sicuro interesse, perché siamo in tantissimi a utilizzare l'automobile e l'automobile diventa sempre un buon mezzo per fare cassa. Questo è il pensiero comune quando leggiamo di installazioni di nuovi autovelox nelle tangenziali piuttosto che in strade comunali nei vari posti della nostra regione. Sì, Francesco, in questa occasione noi vogliamo parlare proprio di questo, ma puntando il dito proprio contro il sindaco di Piove di Sacco, in provincia di Padova, proprio perché ha avuto il coraggio di farsi vanto di quelle 20-30 mila multe che ha comminato nei primi mesi del 2014, riferite a un tratto della Romea, famosa strada dei vivai, dove c'è un limite di 90 all'ora che si riduce non si sa perché e per quale ragione, perché è un pezzo di strada che lambisce il comune ma che non interessa i centri abitati, via dicendo, a 70 e poi ritorna a 90, e il furbacchione ha pensato bene di mettere un'apparecchiatura in questo tratto di 70 km orari e ha falcidiato, come ha detto, migliaia e migliaia di famiglie. Sì, perché poi una multa del genere è importante, cioè si parla di valori intorno a quanto? Allora, innanzitutto, quando si parla di multe e di autovelox si parla di importi ma anche di punti. Gli importi normalmente variano a seconda di quanto l'eccesso di velocità viene superato rispetto al limite, e questo anche i punti, ma soprattutto anche se la multa viene fatta di sera rispetto di giorno, che in questo caso viene aumentata del 30%. Certo è che meno di 180-190 euro non riusciamo a cavarcela, salvo che non si decida di voler pagare entro i 5 giorni di notifica, e quindi si ha diritto a uno sconto del 30%. Però certamente non è questo un incentivo per pagare, ma dovrebbe essere a questo punto un'occasione, perché se un sindaco dopo, a distanza di pochi mesi, si rende conto che quasi 30.000 persone sono state multate, vuol dire che in quel tratto di strada là qualcosa non va, e noi vogliamo appunto, nell'occasione che siamo anche in collegamento con te, evidenziarlo, perché non ha nessun significato mettere certe apparecchiature quando certe apparecchiature dovrebbero avere come definizioni quello di fare prevenzione e non di fare, purtroppo, come hai anticipato tu nella premessa, cassa rispetto a ormai come le amministrazioni hanno capito di fare, perché diventa per loro un rubinetto aperto nelle casse che ormai dei comuni sono pressoché vuote. Sì, infatti ha senso trovare un autovelox magari nelle vicinanze di un incrocio che può essere pericoloso, che ha visto magari numerosi incidenti, ma da automobilista mi accorgo che spesso trovo gli autovelox magari giù da un cavalcavia, quindi dove magari ti lasci andare anche un po' più veloce perché vedi la strada dall'alto, la vedi bella libera, e proprio sotto ti trovi anche la segnalazione con la riduzione della velocità e immediatamente dopo la fotografia che ti immortala in questa infrazione. Sì, purtroppo sì, non ci sono scuole, non ci sono incroci pericolosi, ma ci sono solo rettilini di cui a volte non si capiscono neanche i criteri con cui vengono adoperati o indicati questi limiti di velocità di 50 a 70 all'ora. Certo è che comunque, come hai detto te, purtroppo vengono utilizzati e anche imboscati molte volte proprio per far cassa, senza essere consapevoli che qua non si parla appunto di sicurezza e prevenzione, ma di rovinare delle famiglie, perché poi capita che chi passa lì non ne prende uno, ma ne prende anche molti. Sì. Le apparecchiature, poi non parliamo solo di autovelox, ma ce ne sono ancora di più incredibili, come Velocard o ZTL, che ormai tutte le nostre città sono tappezzate e purtroppo non aiutano neanche i centri storici a vivere, perché rendere i centri storici inaccessibili in certe zone o in certe ore, oppure mettere i parcheggi a pagamento a 2 euro all'ora, purtroppo fa sì che come unica conseguenza le persone si dirottano dai centri commerciali. Scelte che noi non andiamo a commentare e giudicare, ma che comunque dovrebbero essere da parte di chi governa i nostri comuni a doversi mettere una mano alla coscienza e a trovare quelle che sono delle soluzioni che dovrebbero incentivare anziché appunto mortificare queste aree. E per quanto riguarda le multe, secondo me, Francesco, una parentesi sui tempi, i modi di ricorsi, sarebbe giusto farlo per permettere poi anche ai consumatori di capire fin dove c'è la convenienza di verificare o fare o rincorrere quando si becca una sanzione. Esatto, cosa conviene fare? Allora, innanzitutto bisogna capire che al di là di quelli che sono i punti che ci vengono tolti quando si commettono delle infrazioni, ci sono delle infrazioni proprio come l'utilizzo dei cellulari, l'inosservanza delle cinture di sicurezza, il passaggio con il rosso o il superamento dei limiti, non so, di 40 km orari, se si verificano per due volte nell'arco dei 2 anni, in questo caso sei in recidivo e la patente ti viene sospesa, ugualmente a prescindere dai punti. La seconda cosa, quando si decide di ricorrere, sappiamo che il consumatore, il cittadino, deve sapere che non può pagare dopo fare il ricorso, perché dal momento che paghi tu ammetti la colpevolezza, ma è preferibile farlo se si decide di farlo, è preferibile rivolgerlo al giudice. Attenzione che il giudice di pace, perché si possa fare ricorso a un costo di un contributo unificato di circa 40 euro e deve essere fatto entro 30 giorni dalla notifica della multa. Dopodiché non si può più fare ricorso davanti al giudice, ma entro 60 giorni al prefetto, cosa che noi comunque sconsigliamo, perché il prefetto tende sempre a respingere i ricorsi, in quel caso la multa si raddoppia. E mentre il giudice lo fa entro 30 giorni, chiede la sospensione del pagamento in attesa di una sentenza, il prefetto invece dal momento che te la respinge quasi matematicamente, come fa, si raddoppia l'importo. Ho capito, e quindi è assolutamente importante muoversi subito nel caso ci capiti questa sventura e riteniamo che non sia in qualche modo giusta il tipo di sanzione che ci è stata affibbiata. Certo è che bisognerebbe veramente modificare il sistema, quindi politicamente bisognerebbe trovare delle nuove leggi per regolamentare questa cosa. Io dico, e sono d'accordo con te, che tutta la cosa dovrebbe essere regolamentata. Non è possibile che una macchina da 100.000 euro debba correre alla stessa velocità in autostrada di una Panda, perché comunque ha dei sistemi di sicurezza, di strumenti diversi rispetto ad altre vetture, come non è giusto che ci siano dei limiti di 50 all'ora, per esempio, che potrebbero essere ridicoli se messi su strade statali dove magari sono inseriti in un tratto dove si corre a 90 all'ora, non fai tempo a frenare, che comunque sei già in preda dell'autovelox. Ritengo che i vigili debbano fare i vigili, e oggi sembrano quasi che facciano più degli esattori, e soprattutto ritengo che gli strumenti come il Velocard, per esempio, siano degli strumenti che non giustificano il fatto di sanzionare, per esempio, un'auto che si ferma su uno stop e supera di pochi centimetri la riga bianca, ma ritengo che sia più utile mettere, per esempio, un contasecondi che permetta all'autista anche di verificare se è il tempo necessario per impegnare un incrocio e effettuare una manovra. Ecco, come ultima segnalazione, voi dell'Adico vi occupate anche di questo? Noi casi di multe ne abbiamo a centinaia ogni anno, addirittura ci sono state delle ZTL che hanno costituito dei comitati che fortunatamente siamo riusciti anche ad assistere e risolvere tutti positivamente. Come ci occupiamo di qualsiasi multa che un automobilista può ricevere, e addirittura ci occupiamo anche dei ritiri della patente, perché purtroppo magari è stato vittima di altre sanzioni, come per esempio l'abuso d'auto, e sapere che insomma ci sono anche delle possibilità per attenuare la pena, magari rivolgendosi ai lavori socialmente utili anziché magari a certe pene pecuniarie che sono molto più costose. Ecco, ricordo allora associazionedifesaconsumatori.it, il sito dell'Adico. Grazie al presidente Carlo Garofolini, fra 2 giorni un nuovo argomento. Grazie a te, Francesco, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.